Letture di Radio 24. Utilizzare macchine e biciclette solo quando servono per poi lasciarle agli altri. Acquistare e vendere oggetti usati di ogni tipo. In tempo di crisi, il materialismo consumista lascia sempre più spesso il posto a scambi e baratti. Accade a Somerville, nel Massachusetts. Centinaia di giovani signore affluiscono dalla vicina Boston per il National Swap Day, la giornata nazionale dello scambio. In un anfiteatro affittato per l'occasione, si scambiano tra loro ogni sorta di usato, dagli abiti delle griffa più prestigiose alle borse e altri accessori di marca, anche libri e DVD. L'happening di massa dura poco. In mezz'ora sparisce tutto. Swap è baratto, economico, appagante, comunitario. Quando non ho più bisogno di un oggetto, non è detto che l'unica destinazione sia la discarica. Qualcosa di profondo sta cambiando nei comportamenti economici. Se accade nella mecca mondiale del materialismo consumista, l'America, alla portata di una rivoluzione. Perché spendere e comprare se invece posso usare, prendere ciò che mi serve solo quando mi serve? Baratto, affitto, prestito, scambio, usufrutto collettivo, cooperazione. Esplode in mille forme questa nuova economia. È l'ascesa del consumismo collaborativo, così lo definiscono gli studiosi Rachel Botsman e Roo Rogers in un saggio intitolato What's Mine is Yours, quel che è mio è tuo. È l'addio definitivo al XX secolo e alla sua cultura dell'io, afferma la Botsman. A provocare questa svolta contribuiscono fattori generazionali, culturali, tecnologici. The Economist riassume: che cosa fate se siete ambientalisti senza soldi e ben connessi con la comunità online? Dividete. L'economia della condivisione dilaga tra i giovani perché è la soluzione efficiente, sostenibile, etica ed è facilitata dall'uso sistematico dei siti sociali. Time ne fa una delle 10 idee che cambieranno il mondo e osserva che un giorno la proprietà ci sembrerà anacronistica. Guarderemo indietro al XX secolo e ci chiederemo perché avevamo bisogno di accumulare tutta quella roba. Non è obbligatorio avere 20 anni per capirlo. Nella metropoli postmoderna per antonomasia, Manhattan, che bisogno ho io di possedere un'auto privata se Zipcar mi offre sotto casa un'auto ibrida o elettrica da pagare a ore, il giorno in cui veramente mi serve? Nel paese più autodipendente della Terra, già 500.000 americani si sono convertiti a Zipcar, una versione molto più evoluta e sofisticata dell'autonoleggio. Maggior semplicità, parcheggi ovunque, uso anche per periodi brevissimi. Idem per Velib, il sistema delle biciclette pubbliche parigine che dilaga in America da Washington a Denver, da Minneapolis a Miami. DVD? Netflix ha 20 milioni di abbonati che guardano il film e lo restituiscono per posta oppure online. Snap Goods, Share Some Sugar, Neighbors Goods hanno esteso su scala metropolitana l'idea del prestito temporaneo di oggetti, utensili, elettrodomestici fra vicini di casa. Perché mai comprarsi un perforatore Black & Decker se ti serve solo una volta al mese? A pensarci bene, lo stesso vale per la tagliaerba, perfino l'aspirapolvere. Quante ore al giorno questi apparecchi stanno immobili, proprio come l'auto? Vuoi per ragioni di austerità, vuoi per la troppa opulenza degli anni passati che ha riempito le nostre case di oggetti inutili? Scopriamo che il poter usare è molto più importante del possedere. Jeremy Rifkin aveva intuito qualcosa battezzando la nostra era l'età dell'accesso. Nel mondo di Internet ciò che interessa è usufruire, non diventare proprietari. Lo scambio economico si arricchisce di una dimensione umana. Si allacciano nuove amicizie con chi condivide l'esperienza del consumismo collaborativo. Rispetto al baratto primitivo, i siti sociali consentono di abbassare le barriere della fiducia, anche verso gli sconosciuti o chi abita molto lontano da noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Federico Rampini, Consumismo collaborativo, dal settimanale di La Repubblica del 3 settembre. Negli Stati Uniti sono 675.000 gli ex detenuti per reati sessuali. Sono tutti schedati e quando cercano casa nessuno li vuole. Così in Florida è nato un villaggio tutto per loro. Broadview Park, un quartiere nell'hinterland di Fort Lauderdale, in Florida, è diventato la città dei sex offenders. Ex detenuti per violenze sessuali, molestie, consumo di pedopornografia. Nel 2007 a Broadview abitavano 4 sex offenders, oggi sono oltre 100. A creare questo particolare quartiere è stato Randy Young. Lui stesso, molestatore riabilitato, Young, 54 anni, aiuta i criminali del sesso a trovare casa. La gente dice: sbatteteli su un'isola deserta. Bene, mi indichino dov'è l'isola e ci andiamo al volo, sbotta Young. Le leggi americane per i responsabili di reati sessuali di ogni tipo sono inflessibili. Dovunque vadano, devono informare comuni, contee e sceriffi. Ai colloqui di lavoro non possono nascondere i loro trascorsi, idem quando cercano casa. E c'è la norma sulla distanza minima tra gli alloggi dei sex offenders e i luoghi frequentati da bambini, come scuole e giardinetti. Oscilla da contea a contea tra i 305 e i 762 metri in linea d'aria. Perciò, di solito, i criminali del sesso cercano appartamenti in zone periferiche. Ma anche qui in pochi se la sentono di affittare loro una casa. Gli altri inquilini se ne andrebbero e l'immobile perderebbe valore. I nomi dei criminali del sesso, ben 675.000, sono scritti in un registro con foto e indirizzo consultabile online, divisi in sex offenders semplici e in predators, recidivi considerati particolarmente pericolosi. Il documento, istituito per allertare scuole e famiglie, è un marchio elettronico che li accompagna ovunque, anche se sono inseriti nell'elenco per reati sessuali controversi. Per esempio, secondo un recente studio dell'organizzazione Human Rights Watch, 5 stati americani includono nel registro i nominativi di persone sorprese a consumare rapporti sessuali con prostitute. In 13 stati, inoltre, finisce nella lista nera chi urina in spazi pubblici. 23 stati iscrivono teenager che fanno sesso consenziente tra loro. Infine, 32 schedano esibizionisti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Damiano Beltrami Non vi vogliamo, dal numero di settembre del mensile Il Intelligence in Lifestyle.